Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. È stato lanciato a metà febbraio, è il progetto COMBOTS, coordinato dall'Università Campus Biomedico di Roma. COMBOTS significa Connected Through Robots ed è il primo progetto che punta ad aumentare l'interazione fisica tra due esseri umani attraverso l'uso di robot, progetto finanziato con quasi 5 milioni di euro dal programma quadro europeo Horizon 2020. Obiettivo? Utilizzare i robot per aiutare l'apprendimento di compiti motori, quali per esempio la scrittura, oppure suonare uno strumento musicale. Il progetto durerà 3 anni e mezzo, vede la collaborazione tra gli altri anche dell'Imperial College di Londra, l'Università di Gand in Belgio, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e anche 3 realtà industriali come IBM, Juvo e Harvard Tech. Ne parliamo con Domenico Formica, ricercatore dell'Università Campus Biomedico e coordinatore del progetto COMBOTS. Buonasera Formica. Buonasera a voi. Allora, prima di descrivere questi robot, però ecco, tolgo subito dal tavolo questa ipotesi. Non stiamo parlando di un robot antropomorfo, diciamo seduto sullo sgabello davanti al pianoforte al posto di un insegnante umano. Poi spieghiamo bene come sono fatti, ma prima ecco, le chiedo qual è la logica di avere un robot, diciamo, come intermediario. Allora, la logica del progetto viene da una serie di studi fatti negli anni passati in quello che si chiama neuroscienze motorie, che hanno dimostrato come se due persone imparano a fare un nuovo compito motorio e lo fanno essendo fisicamente collegate tra di loro tramite dei robot, l'apprendimento è facilitato. Quindi bisogna immaginarsi una persona che interagisce con un robot che, come dicevamo prima, non ha braccia, gambe e occhi, non è un robot antropomorfo, ma è un'interfaccia che per esempio può essere indossata come un esoscheletro. Se ognuna delle due persone interagisce con questo robot e i robot tra di loro sono collegati da un programma, le persone imparano più facilmente il task motorio che stanno facendo. Ecco, quindi sono dei robot che fondamentalmente si indossano, si impugnano, per esempio se parliamo dell'apprendimento della scrittura, e che trasferiscono, se ho ben capito, i movimenti dell'insegnante all'allievo. Per cui diciamo che uno sta imparando a suonare il pianoforte, l'insegnante esegue il pezzo e, come dire, lo studente anche di fatto esegue il pezzo mosso dall'insegnante. Sì, è corretto. Il robot, ogni persona interagisce con il suo robot che appunto è indossato oppure con un joystick attuato che registra forze e spostamenti. Queste forze e spostamenti vengono trasferite all'altro robot che interagisce con la seconda persona. E lo scambio di forze e spostamenti è bidirezionale, per cui il maestro trasferisce le informazioni di movimento all'allievo, ma anche i movimenti dell'allievo tornano indietro come feedback al maestro, che capisce cosa sta facendo l'allievo. E anche, per esempio, che errori sta facendo. Qua si capisce bene il valore aggiunto, credo, di questa idea, che non consiste affatto nel sostituire l'insegnante con un robot, ma nel permettere una sorta di incorporazione. È come se l'insegnante avesse incorporato nell'allievo. Esattamente, noi abbiamo pensato questi COMBOTS come un modo per aumentare l'interazione tra persone. Quindi i robot sono un intermediario che sta in mezzo alle due persone, solo che anziché trasferire le informazioni come avviene di solito tramite istruzioni verbali, ci sono anche delle informazioni che passano attraverso lo scambio delle forze tra i due robot, quindi è una sorta di interazione aumentata dai robot. Noi pensiamo di applicarlo in età evolutiva, quindi nei bambini, in bambini che stanno apprendendo come scrivere e come suonare un nuovo strumento, e i robot sono dei mezzi che aumentano il modo con cui il maestro farà lezione. Quindi trasferendo non solo le informazioni che il maestro vuole dire al bambino, ma anche proprio i suoi movimenti. E il maestro, come diceva lei, può avere come informazione cosa sta facendo il bambino, quindi anche gli errori che sta facendo, e può aiutare questo a correggere quello che sta facendo. Tra l'altro mi viene in mente che a volte diventano maestri persone che appunto naturalmente hanno avuto, diciamo, successo in quell'attività, e magari hanno avuto successo perché sono estremamente dotati, per loro è tutto facile, e fanno anche fatica a capire le difficoltà di un allievo, diciamo, normodotato. Questo può essere un elemento invece di apprendimento per l'insegnante, direi, oltre che per l'allievo. Sicuramente, come dicevamo prima, il tipo di interazione è bidirezionale, quindi le informazioni non vanno solo dal maestro verso l'alunno, che capisce meglio il movimento che deve fare, ma anche al contrario. Quindi il maestro sente quello che sta facendo l'alunno, sente gli errori che sta facendo, e si spera abbia modo di capire meglio come correggerli. Questo utilizzo dei robot intermediari, chiamiamoli così, è previsto solo all'interno di un rapporto, diciamo, docente-alunno o anche in altre situazioni? No, noi abbiamo pensato che, come tra l'altro è anche stato dimostrato dagli studi in neuroscienze, che l'apprendimento non è solo facilitato quando c'è un esperto che collabora con un non esperto, ma c'è apprendimento facilitato anche quando ci sono due, diciamo, non esperti, due neofiti, che imparano insieme, perché è come se gli errori che uno fa, tipicamente uno impara dai propri errori quando sta imparando un nuovo compito motorio, in questo caso uno non sente solo i propri errori ma sente anche gli errori dell'altro e viceversa, per cui è come se avesse un apprendimento facilitato, non direi raddoppiato ma sicuramente facilitato. Quindi abbiamo immaginato anche lo scenario in cui due discenti, due bambini suonano insieme o scrivono insieme lo stesso, fanno insieme lo stesso compito. Qual è la sfida tecnologica principale? Ce ne sono varie, e una delle fondamentali è quello di rendere questi robot appunto indossabili, soprattutto riguarda il problema degli esoscheletri, abbastanza leggeri, facili da montare, facili da usare per non impedire i movimenti dei bambini, ma allo stesso tempo in grado di esercitare una forza significativa per guidare il movimento. Quindi la maggiore sfida è quello di rendere questi robot leggeri, portatili, facilmente utilizzabili in contesti educativi. Un approccio simile, se non sbaglio, si sta utilizzando nel settore della riabilitazione. Per esempio, quando una persona subisce un ictus e deve reimparare dei movimenti, oggi si utilizzano dei robot che glieli fanno eseguire, lasciando mano a mano sempre più autonomia al paziente. Sì, sì, esattamente. Direi che anzi i primi robot utilizzati a questo scopo sono nati proprio per scopi medici, quindi sono nati come robot riabilitativi tra la fine degli anni 80 e inizio degli anni 90, hanno subito una grossa evoluzione nel ventennio successivo, e adesso non è raro trovare degli istituti di riabilitazione come anche il nostro che utilizzano queste macchine tutti i giorni. La sfida del nostro progetto è quello di portarlo un po' fuori dagli ambienti altamente specializzati come può essere una clinica o un ospedale, però è corretto dire che diciamo, la stessa logica nasce proprio per aiutare i pazienti durante la riabilitazione. Grazie Domenico Formica. Grazie a voi. Va bene cari ascoltatori, abbiamo concluso anche per questa sera, ci diamo appuntamento a domani, buona serata.